Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Ho difeso la mia terra e il mio paese, dice l'ex generale serbo Mladic di fronte al Tribunale Penale Internazionale. Non ho paura. Secondo la Germania si è stabilizzata l'epidemia per il batterio killer, resta però da capire la fonte di diffusione. Recuperati 150 corpi al largo della Tunisia, probabilmente sono le vittime del naufragio di qualche giorno fa. Partiti dalla Libia, volevano raggiungere l'Italia. Suo marito è in coma da un anno dopo un errore medico, ora è sola e dice: se nessuno mi aiuta farò come Beppino Englaro con sua figlia. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci, in giacca, cravatta e berretto. Si è presentato così questa mattina per la prima volta davanti ai giudici del Tribunale Penale Internazionale l'ex generale serbo Ratko Mladic. In diretta con noi Elena Ragusin. Elena. Sì, è un uomo sprezzante, come sempre, come 16 anni fa e negli anni della guerra in Bosnia, il Ratko Mladic che si è presentato oggi alla Corte Internazionale dell'AIA. Ha subito invocato un rinvio dell'udienza per poter avere i termini, ha detto, per vagliare meglio la documentazione d'accusa che gli è stata presentata. Però ha subito messo le mani avanti, per l'appunto, dicendo che si tratta di accuse odiose e affermando di avere agito per il bene del suo popolo. L'udienza è stata aggiornata al 4 luglio, però già da questo primo appuntamento con la giustizia Mladic sembra aver adottato la sua linea di difesa in modo molto diverso da quella di altri imputati eccellenti come Slobodan Milosevic o Radovan Karadžić. Mladic infatti non sembra intenzionato a ricusare l'autorità del tribunale stesso, come hanno fatto i suoi compari di avventura, di guerra, e pare essere comunque intenzionato a ribattere punto per punto le accuse di crimini di guerra e genocidio che saranno avanzate dal tribunale nelle prossime udienze. Grazie, grazie Elena Ragusin. Dunque Mladic non si arrende. D'ora invece veniamo all'emergenza batterio killer. Secondo la Germania la diffusione dell'epidemia si sarebbe stabilizzata. L'origine dell'epidemia da Escherichia coli resta un enigma. Aumenta la paura e non solo in Germania, dove l'epicentro dell'infezione resta il nord del paese. È Amburgo la città più colpita, seguono Bassa Sassonia e Vestfalia. In tutto sono 12 paesi coinvolti, 11 europei più gli Stati Uniti, e tutti risultano avere un legame con la Germania. Il batterio killer sembra particolarmente aggressivo e resistente agli antibiotici e i pazienti vanno trattati con terapie idratanti. L'epidemia preoccupa il 62% dei cittadini europei, che sale al 79% in Italia. Lo afferma Coldiretti, che sottolinea come dopo le rassicurazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, l'unico vero danno per l'Italia in questo momento sia quello economico per i produttori agricoli. Le tensioni commerciali in Europa sono accresciute dalla decisione della Russia di vietare l'importazione di frutta e verdura dall'Unione Europea, decisione che viola le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e per la quale Bruxelles ha chiesto spiegazioni ufficiali. Spagna e Portogallo invece, dopo l'infondata accusa d'aver causato l'epidemia coi loro cetrioli, ora si pensa più ad acqua contaminata, vogliono adesso il rimborso dei danni. Serve dunque fare subito chiarezza, perché la psicosi del batterio killer rischia di essere devastante non soltanto per la salute, ma anche per l'economia. Adriana Fracchia, Radio 24, il sole 24 ore. Oggi il presidente greco è a Lussemburgo per spiegare il piano di rientro chiesto dall'Europa. Intanto Moody's ha abbassato il rating di 8 banche greche. Oggi dovrebbe arrivare l'annuncio di un nuovo piano d'aiuti da 60 miliardi di euro per la Grecia, in cambio di un ulteriore piano di austerità. Piano che verrà presentato oggi, sempre a Lussemburgo, dal premier greco George Papandreou a Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo. Inoltre, la troica di esperti della UE, Fondo Monetario e Banca Centrale Europea dovrebbe dare il via libera alla quinta tranche da 12 miliardi di euro del piano da 110 miliardi, consentendo ad Atene di uscire dalle secche della crisi. Papandreou però dovrà affrontare anche 16 deputati socialisti ribelli che chiedono di votare singolarmente le nuove misure di austerità e non con un unico voto di fiducia. Atene deve convincere sia i mercati sia i greci di essere finalmente sulla strada del risanamento. Vittorio D'Arold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fiat Chrysler ha raggiunto un accordo per l'esercizio dell'opzione del 6% da parte del Lingotto per 500 milioni di dollari e stasera l'incontro fra l'amministratore delegato Sergio Marchionne e il presidente americano Obama. In diretta Andrea Malan. Sì, buongiorno a tutti. L'accordo raggiunto nella notte prevede che Fiat paghi 500 milioni di dollari per il 6% in mano al tesoro e inoltre ulteriori 75 milioni per le opzioni che il tesoro aveva sulla quota in mano al VEBA, il fondo sanitario dei sindacati americani. Questo vuol dire che da oggi il tesoro americano esce completamente da Chrysler, quindi Obama può festeggiare una vittoria politica e festeggiare il fatto di aver contribuito indubbiamente al risanamento e al rilancio del settore auto americano. Fiat, che consolida, lo ricordiamo, la Chrysler da qualche giorno, sarà d'ora in poi il padrone assoluto e dovrà semplicemente discutere poi l'eventuale riacquisto della quota di minoranza ancora in mano ai sindacati, ma potrà gestire in totale libertà le proprie strategie aziendali. E poi stasera la grande festa a Toledo. Assolutamente, Obama è pronto a visitare lo stabilimento di Toledo insieme a Sergio Marchionne a festeggiare, così celebrare ufficialmente, ricordiamo, a meno di 2 anni dall'uscita di Chrysler dal Chapter 11, cioè dall'amministrazione controllata, l'uscita completa del tesoro, che subirà una piccola perdita sui finanziamenti forniti al settore auto, ma può giustamente sostenere di aver contribuito al salvataggio di un settore chiave per l'industria americana. Grazie ad Andrea Malan. Il referendum del 12 e 13 giugno, dopo il sì della Cassazione al quesito sul nucleare, il presidente del Consiglio Berlusconi è tornato a dire «rispetteremo la volontà della gente». Sentiamolo, intervenuto questa mattina su Canale 5. Questi referendum nascono da iniziative che sono demagogiche. Per esempio, il quesito sulla privatizzazione dell'acqua è del tutto fuorviante, perché non è vero che la legge che si vorrebbe abrogare mira a privatizzare l'acqua, è una legge che invece punta a porre fine agli sprechi nella distribuzione dell'acqua. Quanto al nucleare, poi i promotori chiedevano di abrogare le norme sulla localizzazione, sulla realizzazione delle centrali nucleari, ma queste norme sono già state abrogate, non esistono più, e dunque si chiede ai cittadini di andare a votare sul nulla. Il governo si astiene dal prendere qualsiasi posizione a riguardo e si adeguerà alla volontà dei cittadini. Questo invece è l'accorato appello del leader di Italia dei Valori Antonio Di Pietro questa mattina ai microfoni di Alessandro Milan. Vi prego tutti gli ascoltatori di riflettere. Stiamo parlando di temi che prescindono da questo quel governo, da questo quel colore politico. Stiamo parlando di acqua, aria e legalità. Cioè, vale a dire, di temi che riguarderanno il popolo anche fra 1000 anni, dove non ci sarà più né Di Pietro, né Berlusconi, né l'Italia dei Valori, né il Popolo della Libertà. Dobbiamo soltanto decidere se è meglio vivere in un paese in cui le centrali nucleari ci sono o non ci sono, con tutti i rischi che comportano e le opportunità di una soluzione diversa. Se è meglio che l'acqua, in quanto bene fondamentale, lo possono avere tutti, non solo quelli che lo possono pagare, e se possiamo vivere in uno stato di diritto in cui la legge è uguale per tutti. Italia alla Fincantieri, in questi minuti l'incontro a Roma fra il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, azienda e sindacati. Ci colleghiamo in diretta con il collega di Radio Cor, Nicola Filippone. Buongiorno, sì, allora partiamo dalla notizia che è arrivata da fonti sindacali, confermata da più fonti sindacali, e l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, avrebbe accettato di ritirare il piano industriale, venendo così incontro alla richiesta formulata da governo e sindacati. E quello che è successo appunto qualche minuto fa nel corso del tavolo fra vertici del gruppo cantieristico, sindacati e azienda, che è cominciato alle 12:20. Ricordo che il piano industriale prevedeva 2.550 esuberi, la chiusura degli stabilimenti di Sestri Ponente e Castellammare e il ridimensionamento dell'altro stabilimento ligure, quello di Riva Trigoso. Adesso chiaramente stiamo aspettando i dettagli e gli sviluppi di questo tavolo che continua, vogliamo ovviamente capire quali saranno le alternative di cui si sta sicuramente discutendo in questi minuti. Nel frattempo qui fuori un'altra delegazione nutrita di operai prevalentemente provenienti da Castellammare di Stabia sta manifestando da più di un'ora, quindi da quando è cominciato l'incontro. Per loro comunque è arrivata questa buona notizia e quindi vedremo anche come accoglieranno questa notizia le migliaia di lavoratori che stanno appunto sfilando per le vie della capitale, arrivati da Castellammare di Stabia come abbiamo sentito, ma anche da Genova. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, io mi trovo davanti al largo di Tito, dove il corteo che avrebbe dovuto dirigersi verso il Colosseo è stato bloccato poche centinaia di metri prima dai blindati delle forze dell'ordine e dagli agenti in tenuta antisommossa per motivi di sicurezza. È in corso una trattativa tra i manifestanti e le forze dell'ordine, c'è una certa tensione, ma in realtà la situazione è tutto sommato tranquilla. Qui ecco le notizie che arrivano dal Ministero, ancora non hanno fatto il giro tra i manifestanti, quindi sono continuati fino a pochi minuti fa dei cori di protesta e fischi all'indirizzo delle forze dell'ordine. Si tratta di manifestanti che provengono in particolare dalla Liguria, sono operai, maestranze, anche impiegati della direzione di Genova, c'è anche il sindaco di Genova Marta Vincenzi. Diciamo situazione qua, come dire, ancora di stallo, perché i manifestanti vorrebbero proseguire e comunque raggiungere la sede del Ministero dello Sviluppo Economico all'Eur, dove in questa trattativa e dove sono gli altri manifestanti. E comunque le notizie che arrivano dal tavolo dovrebbero in qualche modo placare anche gli animi. Grazie ad Alessandra Schepisi. Andiamo invece ad un altro terribile argomento. 150 corpi sono stati trovati al largo della costa tunisina. Si tratta con ogni probabilità dei migranti che a bordo del barcone andato in avaria nei giorni scorsi, partito dalla Libia e diretto a Lampedusa. La notizia è stata data da un funzionario dell'ONU. Ieri si parlava di più di 200 persone che mancavano all'appello. Una nuova tragedia dunque nel canale di Sicilia. Non siamo ancora a metà dell'anno, ma il 2011 è già il più nero per la conta delle vittime nel canale di Sicilia. Fino ad ora l'anno horribilis era il 2008, quando, nella speranza di raggiungere le coste europee, si contarono 1.274 vittime a fronte di 36.000 arrivi in Sicilia. Numeri già impressionanti, ma spazzati via da questo inizio d'anno, con già 1.615 nomi che mancano all'appello da quando è cominciato l'esodo dalle coste del Nord Africa. A tenere il conto è l'osservatorio Fortress Europe, un conto necessariamente per difetto che esclude le segnalazioni senza conferma dei battelli fantasma che non lasciano traccia se non il sospetto di altre morti. Uno su 10 non ce la fa ad attraversare il Mediterraneo, ma nonostante questo si continua a partire tra vecchie e nuove rotte. Due quelle che si incrociano in questi mesi nel canale di Sicilia, la prima dalla Tunisia, la seconda dalla Libia. E per quanto la seconda sia sulla carta la più semplice per scafisti e barconi mal ridotti, è qui che si muore di più. Sulla rotta libica i morti sono stati già oltre 1.200. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Associazioni italiane e straniere in occasione del festival Ritmi e Danze del Mondo si sono ritrovate nel Trevigiano a cantare l'inno d'Italia nella festa del 2 giugno, dunque ieri. Ecco cosa è venuto fuori. India, Canada, Etiopia, Olanda, Romania, Italia. Ho difeso la mia terra e il mio paese, dice l'ex generale serbo Mladic di fronte al Tribunale Penale Internazionale. Non ho paura. Fincantieri, ritirato il piano di tagli durante il tavolo con i sindacati al Ministero per lo Sviluppo Economico. Secondo la Germania si è stabilizzata l'epidemia per il batterio killer, resta però da capire la fonte di diffusione. Recuperati 150 corpi al largo della Tunisia, probabilmente sono le vittime del naufragio di qualche giorno fa. Partiti dalla Libia, volevano raggiungere l'Italia. E ripartiamo da una vicenda davvero assurda. Suo marito è in coma da un anno dopo un errore medico, ora è sola e dice: se nessuno mi aiuta farò come Beppino Englaro con sua figlia. Sentiamo Irene Sampognaro al microfono di Valeria De Rosa. Esattamente un anno fa mio marito si recò in ospedale per una banale operazione, per l'estrazione di due punti alla mascella, ed entrò in coma irreversibile a seguito di un arresto cardiaco. Ho scritto al ministro per sollecitare appunto il suo intervento delle istituzioni, perché sono state assenti. Il ministero mi ha risposto che loro non sono comunque competenti, come se avessero fatto appunto scaricabarile. Io ritengo che mio marito abbia bisogno di cure di cure verdi, cure farmacologiche che ritengo siano all'estero, non in Italia, dove comunque il protocollo è uguale per tutti i centri di risveglio. Di che cure stiamo parlando? Lei preferirebbe accompagnare suo marito alla morte in maniera dignitosa? Quella è l'estrema razio, voglio dire, io sono per la vita, però non posso io vedere mio marito vegetare, non facciamo vegetare queste persone, ci vogliono cure e terapie intensive. In questo momento mio marito si trova in una struttura dove praticamente sta vegetando, queste persone non hanno bisogno di essere rigirate solamente in un letto ogni ora e mezza. Qui il problema è duplice, non solo la condizione attuale di suo marito, ma il fatto che quanto è accaduto un anno fa ancora non ha avuto delle risposte. No, perché non c'è la volontà, no? Che non si sia individuato. L'interesse dell'ospedale chiaramente è quello di salvare l'immagine. Peraltro operazione del tutto inutile, perché mio marito aveva semplicemente un problema di sinusite. Dalle lastre si vede chiaramente che sinusite comunque c'è ancora. Quindi non niente, errore sì. Nell'errore, è stata sbagliata anche proprio la diagnosi? Sì, è stata sbagliata, guardi, qua si è sbagliato prima, durante e dopo, c'è stato un errore di diagnosi, un errore sicuramente nell'operazione che ha causato l'arresto cardiaco, e poi perché non è stato rianimato subito. L'operazione è stata fatta in regime pubblico? Sì. Nei giorni precedenti comunque telefonavano spesso dall'ospedale per chiedere se mio marito volesse farla in intramenia. Molti oggi gli incontri bilaterali a Roma con i capi di Stato e di Governo arrivati nel nostro paese per la festa della Repubblica. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il 65° anniversario della Repubblica, accompagnato dai festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia, hanno portato nella capitale 80 delegazioni internazionali. Già ieri la residenza di Villa Panfili ha accolto il trilaterale Italia, Russia, Stati Uniti ed ancora il faccia a faccia tra Berlusconi e il presidente afghano Karzai. L'incontro quindi con il presidente dell'Unione Europea Van Rompuy, diversi temi trattati, Libia, economia e Medio Oriente con Mosca e Washington, immigrazione e parametri economici con i vertici dell'Unione, il ruolo del nostro contingente con il leader di Kabul. Oggi il presidente del Consiglio Berlusconi vedrà nel pomeriggio il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen. Quest'ultimo ieri qui a Roma al Quirinale ha avuto un colloquio con il presidente di Israele Peres. Sempre nel pomeriggio il premier italiano vedrà il vicepresidente cinese Xi Jinping, che nel 2012 diverrà il nuovo presidente della Repubblica Popolare. Nel corso dell'incontro con Berlusconi saranno siglati 14 contratti per oltre 3 miliardi di dollari che riguardano telecomunicazioni, energia, tecnologia, automobilistica, cantieristica, ma anche accordi finanziari. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E fra gli incontri, l'abbiamo appena sentito, anche quello con il cinese Xi Jinping. Sentiamo allora un ritratto di questa figura destinata a far parlare di sé nel prossimo futuro. Lo descrivono come un leader disinvolto e telegenico, in grado di modernizzare senza stravolgere. Anche per questo Xi Jinping, il vicepresidente cinese che ha partecipato a Roma alle celebrazioni del 2 giugno allungando la visita a Milano per incontrare i vertici dell'economia, è già, nei fatti, la prossima guida del colosso cinese. Destinato a succedere nel 2012 a Hu Jintao nel triplice ruolo di segretario del partito, presidente della Repubblica e presidente della commissione militare, la sua prossima nomina è già stata accolta con soddisfazione dalle cancellerie. All'estero piace per il suo carattere schietto, la padronanza dell'inglese e la figura lontana dal grigio cliché di apparato. E per le sue idee, descritto come un sincero riformista ed un convinto assertore del ruolo del privato nell'economia. Laureato in ingegneria, la svolta nella carriera ai vertici della nomenclatura arriva come segretario politico nella Shanghai, travolta dallo scandalo finanziario del 2007. Da allora l'immagine di Xi Jinping viene accostata a quella di nemico implacabile della corruzione. Con un lato pop, sua moglie Peng Yuan è una cantante di successo. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il ruolo dell'informazione al centro dei lavori oggi al Festival Economia di Trento. L'informazione è l'anima del mercato e la libera concorrenza può esistere solo in un mercato dove circolino tutte le informazioni necessarie. Apparentemente si tratta di un principio scontato che tuttavia negli ultimi anni è stato più volte disatteso per colpa della stampa e delle istituzioni finanziarie, contribuendo alla crisi finanziaria globale. Del ruolo centrale dell'informazione economico-finanziaria questa mattina si è discusso al Festival dell'Economia di Trento, grazie a un parterre decisamente ricco, a partire da Giuseppe Musseri, numero uno dell'ABI del Monte dei Paschi di Siena, che ha sottolineato come l'esplosione di nuove tecnologie dell'informazione crea una miriade di informazioni contraddittorie tra loro. Secondo l'economista Marco Onadi invece c'è un tema di responsabilità nel messaggio mandato dalla stampa alla collettività. Infine un duetto tra lo stesso Mussari e Enrico Giovannini, presidente dell'Istat. Secondo quest'ultimo, solo il 24% degli italiani ha fiducia nelle banche, ma l'analisi è influenzata molto da chi non ha rapporti proprio con le banche. Piccata la replica di Mussari, prendersela con le banche non serve a nessuno, ciò non toglie che le istituzioni finanziarie hanno un grosso problema di comunicazione. Ciò Condine da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Calcio scommesse, un secondo livello che si occupava della Serie A, composto da personaggi che ruotano attorno al mondo del calcio, ben più famosi rispetto a quelli finiti in carcere mercoledì. Un secondo livello nel quale non è escluso vi possa essere il coinvolgimento della criminalità organizzata. Questa mattina gli interrogatori di garanzia. La Procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per Danilo Restivo, unico indagato per l'omicidio di Elisa Claps. Restivo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Aggredito e derubato a Parigi, si tratta di un direttore regionale della Barilla francese, assalito nella notte nella capitale francese da due sedicenni che gli hanno rubato il portafogli dopo averlo colpito con martellate. L'uomo è ricoverato in ospedale con prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta vicino a Place de la Nation. Secondo gli accertamenti, i due ragazzi, subito arrestati, hanno rubato il portafogli che conteneva una somma di denaro non importante. Nel 2007 un giornalista di Lecce, Sergio Vantaggiato, era rimasto vittima di una rapina sempre a Parigi. Era morto qualche giorno dopo l'aggressione. Ci sono anche i famosi ritratti di Mao Zedong di Warhol fra i 12 quadri ritrovati dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Sentiamo i particolari dell'operazione nell'intervista di Romolo Napolitano al capitano Andrea Ilari. Abbiamo ritrovato i dipinti di un importantissimo collezionista milanese, ma da tempo a Monaco, quindi monegasca, che erano stati rubati nel marzo di quest'anno, una collezione intera delle opere eccezionali, 5 Morandi, 5 Giorgio Morandi, 2 Andy Warhol, i famosi Mao degli anni 70. Dove avete trovato queste opere? Chi le aveva trafugate? Noi abbiamo al momento coloro che le avevano e quindi i ricettatori. L'operazione si chiama Grand Prix perché nasce proprio da davanti l'ingresso principale dell'autodromo di Monza, laddove la radiomobile di Monza ferma una macchina, trova all'interno un quadro, verifichiamo subito che questo quadro è uno di quelli che sono da ricercare e sono in tutta Europa, sono di fatto nella banca dati nostra dei carabinieri e anche quella dell'Interpol. Attiviamo le nostre attività, l'indagine e ci rechiamo in Liguria, laddove poi dopo, nella nottata, all'interno di un container, troviamo i rimanenti. Avete stimato quanto sia il valore di tutte queste opere? Il valore assicurativo è tra i 2 e i 2 milioni e mezzo, però il valore commerciale sicuramente può essere superiore. Per piacere di quello storico artistico, perché i quadri dietro hanno praticamente le etichette di musei e gallerie di mezzo mondo, quindi sono stati esposti dappertutto. Una notizia di pochi istanti fa, Paolo Berlusconi è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio, millantato credito e ricettazione in relazione alla pubblicazione sul Giornale della telefonata in cui Piero Fassino diceva a Gianni Consorte «abbiamo una banca». Il processo inizierà il prossimo ottobre davanti ai giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Milano. E siamo al tennis, domani la finale del Roland Garros, in campo la nostra bravissima Francesca Schiavone che deve vedersela con la cinese Li Na. A Radio 24 il CT della Nazionale, tecnico della Schiavone, Corrado Barazzutti al microfono di Dario Ricci. Chiaro che Francesca ha giocato il torneo con una grande pressione addosso, aveva la grande responsabilità di confermare il buon risultato straordinario di l'anno scorso. E dunque è difficile giocare con queste condizioni, insomma, però Francesca è molto molto brava, perché devo dire che ha iniziato molto bene il torneo, quindi ha dato dei segnali forti, insomma, nel senso che vedeva che era in forma. Poi, insomma, durante il torneo ha avuto alti e bassi, ma è stata capace, insomma, di vincere partite molto molto importanti. Hanno lasciato il segno soprattutto le due rimonte con la Jankovic e con la Pavlyuchenkova, no? Segno che la condizione fisica c'era e che piano piano anche quella emotiva stava arrivando alla temperatura giusta. Sì, sì, non c'è dubbio. Francesca qui era molto molto ben disposta a lottare, ben disposta ad accettare anche magari un tennis non molto buono, ma preparata a soffrire, a combattere punto su punto. E questo, insomma, alla fine conta moltissimo, perché poi quando a questo gli si aggiunge anche una giornata come quella di oggi di tennis che funziona molto bene, vengono fuori dei grandi match. Ora la finale con la cinese Li Na, dal punto di vista tecnico che finale si aspetta? È una finale molto difficile, è una partita molto difficile. La Li Na è una giocatrice che ha due fondamentali e il servizio che sono molto molto buoni, quindi molto solida. Gioca la sua seconda finale di Slam perché ha già fatto finale agli Australian Open, ma insomma, Francesca ha un tennis assolutamente capace di battere giocatrici come la Li Na. L'anno scorso al terzo turno proprio qui a Parigi ha incontrato la Li Na e l'ha battuta. Da oggi a domenica Cremona, Le Corde dell'Anima, un festival che mette insieme musica e letteratura. La curatrice Anna Folli al microfono di Alessandra Tedesco. È un intreccio di parole e di note, di letteratura e di musica, che si svolgeranno appunto a Cremona, che è una città famosa per le sue liuterie, ma per essere anche la città di Monteverdi e quindi famosa come città della musica in tutto il mondo. Abbiamo invitato tutta una serie di scrittori in cui la musica è un elemento fondamentale per nei loro romanzi, perché creano un'atmosfera, ci sono personaggi musicisti e quindi hanno un'attenzione particolare alla musica. E poi ci saranno anche cantanti invece che per la prima volta si dedicano ad un romanzo, per cui, per fare solamente due esempi, Eugenio Finardi, che uscirà con il suo primo romanzo, e il leader dei Baustel, Francesco Bianconi, che anche lui ha scritto un bellissimo romanzo che presenterà al festival. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.